La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Oggi i racconti dell'Italia in vacanza saranno speciali, saranno racconti a basso prezzo. Se andate sulla pagina di Facebook La Bella Estate saprete già che oggi parleremo di vacanze low cost, ma non di quei low cost attuali, moderni, gli aerei, diciamo, no, vacanze al risparmio, quelle che si facevano anche un tempo, perché si è sempre cercato di viaggiare risparmiando. Però oggi pare che si viaggi di più, risparmiando ancora di più. La notizia è delle 12.53. Consumi. Una famiglia su 5 non arriva a fine mese. Beh, non è una notizia di oggi, è un po' che ne sentiamo parlare. Però da una famiglia su 3 siamo passati a una famiglia su 5. Non si arriva a fine mese per il 18,8% delle famiglie italiane. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono i soldi neanche per andare in vacanza, bisogna quindi inventarsi qualcosa, assolutamente essere originari. Avete storie di vacanze al risparmio, ma anche scroccate? Dai, dite la verità. Avete scroccato un mese di ferie a qualcuno, a un amico ricco? 800 24 00 24. Anche se avete dei consigli per viaggiare gratis, per andare in vacanza risparmiando, che comunque non è una cosa recente. C'è un film di qualche anno fa in cui... ma ascoltiamolo. E il dottore disse a mia moglie che era indispensabile almeno un mese di mare. Piuttosto stare all'aumento dei prezzi a lasciare tutti con la bocca aperta e le tasche vuote. Allora, Cesare, quanto ci costa sta vacanza? Scusa un attimo, 6x8,48, scrivo 8 e porto 4. Niente, mi vengono 38 milioni. Ma com'è possibile? Fa vedere? Ci hai messo 16 milioni di gelati. Che dici, ci faranno male? Mi deve essere sfuggito qualche zero. No, è che si è rotta la calcolatrice, io per la matematica non sono portato. Gli unici calcoli che mi sono riusciti bene nella vita sono quelli alla cestifelia. Fai vedere a me. Non supererai 2 milioni, vedrai. Vedrai. Se dovesse venire qualche cosa di più, comunque non ti preoccupare. Noi ci abbiamo da parte solo 389.000 lire. E se mi impegnassi la pelliccia e il braccialetto? La pelliccia è sintetica, il braccialetto con tutta l'umidità che c'è qua dentro ha tirato fuori il verde rame. Ho paura che al Monte di Pietà se ne accorgono che non è oro purissimo, sai. Eppure una soluzione ci deve essere. Sì. Rifamo i calcoli? Sì. Con la casa di La Dispoli superiamo i 2 milioni. Visto? Ma possiamo prendere quella sull'Aurelia, quella del passaggio a livello. Mm. Non è granché, ma con 1.800.000 lire possiamo portare i ragazzini. Che impressione sentir parlare di milioni. Adesso ormai abbiamo preso l'abitudine all'euro. 2 milioni, pensiamo subito a 2 milioni di euro. Invece erano 2 milioni di lire. Il film era ricchi, ricchissimi, praticamente mutande. C'era Pippo Franco, era dell'82. Non è cambiato molto da allora. Anche se oggi, ripensando all'82, uno dice: ah, come si stava bene allora, quanti soldi giravano. Ma prima dell'82 era successo qualcos'altro all'inizio degli anni 70. Austerity, austerity, se non vuoi andare a piedi contro l'asino. Austerity, austerity, e dagli poca piada da mangiare. So che avevate rimosso sia l'austerity, sia questo pezzo, sia Tony Santaga. Dai, io cattivissimo, bah, ve l'ho riportato alla memoria. Vabbè, non odiatemi, dai, per favore, non odiatemi. Anzi, chiamatemi 800 24 00 24. Notizie, informazioni, ricordi delle vostre vacanze al risparmio o anche allo scrocco. Per farmi perdonare da questo brutto scherzo che vi ho fatto con Tony Santagata, vi darò 5 consigli per viaggiare e andare in vacanza risparmiando. Ascoltatemi. Allora, se volete andare lontano, dovete scegliere delle piccole compagnie low cost. Pare che non solo costino poco, ma anche che qualcuna riesce anche a decollare e a portarvi dove dovete andare. Se prenotate poi con largo anticipo, pagate meno. Iniziate a pensare quindi oggi alle vacanze del 2013. Naturalmente voi dite: ma no, c'è il 2012. Ma non è detto che succeda qualcosa nel 2012. Intanto voi avete già il biglietto per il 2013. Se andate in vacanza poi in bassa stagione, evitando luglio e agosto, spendete molto meno. Rimini comunque ha il suo fascino anche sotto la neve. Bisogna saperle apprezzare le cose, non potete avere una cosa e l'altra. Insomma, se siete giovani e pronti a tutto, dovete puntare sugli ostelli della gioventù. Se non sapete come sono, andate a rivedervi quel video in cui hanno catturato Osama Bin Laden nel compound. Sono praticamente identici, come arredamento e come livello di pulizia. Insomma, migliorate poi alla fine il vostro giro di amicizie. Puntate su gente ricca, gente che abbia le ville al mare, che abbia ville con piscina, che abbia queste case, che viaggi in crociera. E vi presentate lì all'improvviso e dite: sono venuto per una visitina. State lì anche 15 giorni. Tanto loro sono sempre persone molto disponibili e accoglienti, ricchi pare. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa, io che ti aspettavo. Stringimi la mano, poi partiamo. In fondo eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva. Solo una candela era bellissima, il ricordo del ricordo che ci suggeriva che La tristezza di questo pezzo di Tiziano Ferro va a fare la vacanza ad Amsterdam, sapete quella gita delle pentole in cui con 200 euro tutto compreso state via un mese e poi portate a casa anche un corredo di pentole e casseruole. Siete mai andati a fare una di queste gite? 800 24 0024, eh? Una vacanza veramente triste e sfigata quella di Tiziano Ferro. Vanno ad Amsterdam, manca la luce in albergo, piove, sicuramente sarà anche piovuto dentro la stanza d'albergo, sono lì con una candela e lui le canta e dice anche che era contentissimo, io non lo so. Io piuttosto che fare una vacanza del genere starei a casa. Ci sono due mie amiche che cantano, che hanno fatto un viaggio tanto tempo fa. Lo hanno fatto in Irlanda e da lì è nata poi tutta la loro carriera musicale. Le ho chiamate per voi e sono al telefono con noi, sono ben due, sono Paola e Chiara. Ciao Paola, ciao Chiara. Ciao buongiorno. Dovrebbe essere oggi la puntata dedicata ai viaggi in economia e invece noi raddoppiamo due ospiti in una volta sola, sarà difficilissimo gestirvi. Dove siete ragazze? In questo momento siamo in Sardegna, stiamo facendo una serie di concerti per cui adesso siamo qua in Sardegna vicino a Villa Simius e stasera suoniamo e poi proseguiamo il nostro tour in giro per l'Italia. Ma sempre in zone di mare, di vacanza? Diciamo sì. Per lo più sì, abbiamo fatto l'altro giorno Lignano e adesso siamo qui, poi andremo a Napoli, all'Arenile, insomma abbiamo una serie di appuntamenti. Io vi ho chiamato per un motivo, perché la puntata di oggi si chiama Con un Deca, ovvero le vacanze all'insegna del risparmio. Io ricordo una volta di aver sentito, di aver letto di un vostro viaggio in Irlanda. Sì, sì. Che è stato un viaggio fondamentale per voi. Ma l'avete fatto anche voi all'insegna del risparmio, cercando di lesinare su ogni moneta? Come è andata? Beh, facevamo, chiaramente avevamo scelto un nostro tetto di spese, in base a quello facevamo. Poi abbiamo affittato una macchina là a Dublino e poi abbiamo percorso tutto il sud-ovest irlandese in macchina. Io peraltro per la prima volta guidavo con la guida alla destra, è stato molto divertente. Sì, vuol dire è divertente ma anche pericoloso, ve la siete cavata comunque. Guarda, in certe zone sì, perché peraltro noi siamo andati in febbraio che era un periodo abbastanza, cioè tra i più freddi in Irlanda, quindi una sera mi ricordo che è stato difficile raggiungere una località perché eravamo su un passo lontano dove la strada era molto stretta e c'era una tormenta e anche un po' di neve e insomma era buio, eravamo le uniche in giro quell'ora, insomma non è stato facilissimo, però è il classico viaggio avventuroso che ti regala sempre qualcosa. Noi eravamo partite con l'idea di scrivere delle canzoni, non l'avevamo mai fatto prima, pensando appunto di poterne poi di poterne fare il nostro lavoro, ecco. Era subito dopo l'esperienza con Pezzali, siamo partite appunto per fare questo viaggio pensando di trovare ispirazione e in effetti poi quel viaggio ci ha dato ragione, perché poi al ritorno abbiamo iniziato a scrivere una canzone dopo l'altra, poi è arrivata la vittoria di Sanremo dopo un anno, insomma. Ma prima di questo viaggio eravate già state in vacanza da sole o era la prima esperienza anche di vacanza da sola? No, siamo già state anche prima. Sempre vacanza al risparmio? Diciamo che più che una vacanza è stato un viaggio, un viaggio vero e proprio, un viaggio dove noi siamo andate per cercare qualcosa, cercavamo di scrivere il nostro primo disco e sapevamo che lì avremmo trovato qualcosa, ci siamo fatte guidare da una sorta di istinto. Due piccole Siddhartha in fondo, Sì, esatto, siamo andate proprio a cercare noi stesse, abbiamo fatto anche prima di partire una preparazione anche di letture di un certo tipo, ci siamo fatte guidare un po' dal nostro sesto senso e devo dire che è stato vero, perché poi al ritorno lì non abbiamo scritto nulla. Infatti eravamo un po' tristi così, poi appena siamo tornati era come se... Come eravate tristi? Eravate in Irlanda, perse su una montagna di notte al freddo ed eravate tristi? No, eravamo tristi perché non riuscivamo a scrivere là. Ah, allora, ho capito. Un paio di volte ci siamo messi con la chitarra a cercare di scrivere ma non usciva niente. E poi dopo quando siamo tornate è venuto fuori tutto, l'Irlanda è venuta fuori. Ma mangiavate normalmente? Mangiavamo troppo. Come troppo? Io vi vedevo perse. Fa freddo e quindi si mangia. Ah beh, per compensare. Comunque sì. La puntata di oggi, vi ho detto, si chiama Con un Deca, che è un pezzo del nostro amico Max. Lo sapete sì. Meglio di me. Voi avete cantato con Max, facevate le coriste. L'avete fatto anche in questo pezzo il coro? No, lo facciamo soltanto durante i concerti, perché nel disco non c'erano dei cori nella canzone incisa sul disco. Avevamo fatto i cori su Tieni il Tempo, che era il singolo di quell'album. Sì, però sì. Con un Deca avevamo iniziavamo il singolo dell'album di La donna al sogno, il grande incubo, che fu il primo album da solista dopo Mauro Repetto. Invece con un Deca è un pezzo vecchio. Suonavate la chitarra anche? Sì, esatto, dal vivo. Era il pezzo dove in concerto noi utilizzavamo la chitarra per iniziarlo e lo iniziavamo noi da sole, quindi partiva il click e noi partivamo con questo arpeggio di chitarra ed era molto emozionante perché... mi ricordo il forum era pieno e soprattutto mi ricordo il forum perché eravamo a Milano, era strapieno e dovevamo iniziare questo pezzo da sole, quindi era molto emozionante perché era il pezzo in assoluto dove avevamo più responsabilità sul palco. Ma oggi sentite la mancanza di quelle vacanze che facevate prima, un po' con le ristrettezze da ragazzine? Ma guarda, ne parlavamo proprio l'altro giorno, insomma, che è un po' che non facciamo una vacanza di nuovo insieme. E, un'altra, per esempio, che avevamo fatto insieme, magari lì non è che sia state proprio così ristrette. Una volta siamo andati a Seychelles anche, ma prima di scrivere, anche in Brasile, insomma, prima di scrivere tantissimi dischi siamo partite per dei viaggi. I viaggi hanno sempre caratterizzato molto la nostra musica. In generale, ogni tanto ci piace ricordarlo perché la nostra storia musicale è fatta anche e soprattutto di quello. Va bene, allora adesso state per partire o no? Adesso siete in tour, no? Dico partire in vacanza dopo il tour, cosa farete? Non lo so, perché abbiamo un po' di impegni, abbiamo un po' di cose da fare, tra cui anche il disco nuovo, quindi non so se riusciremo a partire. Sicuramente non potremo fare un viaggio, magari faremo una mini vacanza, però non sappiamo ancora se lo faremo insieme o separate, se e dove andremo, quindi è ancora tutto da decidere. Va bene, teneteci informate però ragazze, ci teniamo. Buona continuazione d'estate intanto. Grazie, tornato anche a voi. Ciao Paola. Gli ascoltatori di Radio 24. Ciao Paola e ciao Chiara. Ciao. La distanza trascina i pensieri, li porta via. Che ne è stato di quel che ero ieri, di quel che ero ieri. Bene, Paolo e Chiara hanno confermato una cosa: la vacanza che costa poco, fatta con pochi mezzi, è più avventurosa. Ma la vacanza che vi pagate invece con dovizia di mezzi, con tanti soldi, alberghi, trasporti, prima classe, o almeno comunque un albergo e un aereo decenti, è forse più divertente o è meno divertente? Questa è un'altra domanda che vi faccio. 800 24 00 24. C'è già una lista d'attesa, vedo una lista d'attesa di ascoltatori. Cominciamo da Paolo. Paolo da Roma. Pronto? Buongiorno. Ciao Paolo, allora sentiamo la tua avventura a basso costo, qual è stata? Allora, la mia avventura a basso costo è stata molti anni fa ormai, avevo acquistato un biglietto Interrail, sì? Dopodiché avevo giusto i soldi per un hamburger e sono partito con quelli, ho fatto un mese di vacanza. Hai mangiato un hamburger in un mese? Un no, pezzettino al giorno? No, ho fatto qualche lavoretto qua e là, raccolto le mele in Francia, fatto i tuffi in Francia a pagamento davanti a un gruppo di turisti. No, facevi il tuffatore gigolò, cos'è? Cioè ti tuffavi a pagamento? No, noi ci tuffavamo, tra l'altro io ero quello che sapeva tuffarsi meno degli altri, però gli altri erano degli amici e c'era uno di noi che non partecipava ai tuffi e che raccoglieva i soldi con un cappello nel più classico dei modi davanti ai turisti. Ah, quindi proprio una specie di spettacolo. Ma le mele invece cos'erano? Quelle per il sidro? Sì, esatto. E tu andavi lì a raccogliere, ti pagavano un tot a mela? Si pagavano a chilo. Ah, a chilo. Era adesso non mi ricordo più quanto era poco, però insomma ci bastava. È stata una bellissima avventura, tra l'altro molto più belle di tante altre pagate a caro costo. Dimmi la verità, oggi non lo rifaresti più però? Oggi ho 50 anni, è un po' dura, Io viaggio moltissimo ancora, ma per lavoro. Fai raccogliere le mele agli altri. Le comodità ne abbiamo bisogno. Certo, hai tutto un esercito di raccoglitori di mele. Grazie Paolo. Grazie. Ciao. C'è Nicola, anche Nicola avrà fatto qualche vacanza low cost, sentiamo dalla provincia di Belluno. Nicola. Pronto? Buongiorno. Ciao. Io io non ho fatto vacanze low cost, però essendo montanaro conosco un sistema molto simpatico per passare una vacanza senza pagare troppo. Dai, diccelo, spiegacelo. E, ci sono un sacco di bivacchi liberi in montagna, sì? Per cui decidendo un itinerario particolare, insomma, tra bivacco e bivacco, ci si può passare la settimana. Bivaccando, appunto. Bivaccando, diciamo, ecco. Nei bivacchi c'è anche da mangiare, no? Devi portarlo da casa. Nei bivacchi ci si porta il cibo, c'è sempre qualcosa, però diciamo che c'è una regola non scritta e qualcosa bisognerebbe anche lasciare, tra cui ci si porta... Però... Sì, bisogna anche spiegare una cosa però, Nicola, siccome il resto dell'Italia è fatta tutta di città di costa, città marine, cioè, non sanno cosa sono i bivacchi, per cui vogliono sapere cos'è un bivacco. Un bivacco è una specie di struttura in legno di montagna dove c'è la possibilità, un reparto a piano terra dove c'è un focolare e un tavolo per mangiare e una stufa. Ecco, abbiamo spiegato, siccome siamo un popolo di navigatori e sappiamo tutto sui racchettoni e gli ombrelloni, ma sai, molti non sanno cos'è un bivacco. Grazie comunque. Parti sopra per sì. Il pernottamento. Okay, bisogna adattarsi. Ah beh, naturale. No, se non ci si adatta, che vacanze lo sono? Mica vai lì e trovi il letto morbido. Grazie Nicola. Vedo Claudio da Milano, in attesa. Sì, ciao. Claudio. Io ho un paio di avventure. Una è risale agli anni 80, quando ero un ragazzo 18-19 anni, così. Ho fatto una di queste vacanzine da 10.000 lire per andare a Venezia. E è un bel momento. Cioè la gita delle pentole. Esatto, a metà strada verso Verona, non ti so dire adesso, così ci hanno così fatto entrare dentro questo autogrill, che non era, cioè una sala dentro l'autogrill, ci hanno blindato, non potevamo uscire, ci hanno fatto questo lavaggio del cervello per un'ora su queste pentole e poi il tipo passava anche tra i tavoli per cercare di vendere e ti dirò che ha anche venduto diverse pentole. E perché avevano paura, temevano di non poter uscire, o compri o esci, cioè il problema era quello. Quando si sono avvicinati a me, io ho avuto, non so, la prontezza di mettere la mano sul ventre di quella che era la mia compagna allora, indicando il ventre, dice no, guarda, stiamo aspettando, è in arrivo un bambino, non abbiamo soldi. D'altro canto non avrei comprato una vacanza da 10.000 lire se potevo prendere delle pentole che costano 100.000 lire. Ah, perché c'era anche, diciamo, la piccola truffa, cioè il servizio, il set di pentole costava molto di più della gita. Certamente, sì. Poi niente, la gita è proseguita e così sono riuscito a farla per 10.000 lire senza le pentole. Invece qualche anno dopo, nel viaggio di nozze, ho preso un viaggio in Kenya da una grande compagnia di viaggi, molto importante, tra l'altro con un volo fatto con l'Alitalia e non con i voli charter, perché io avevo delle fisse sul fatto che l'Alitalia cadeva poco, insomma, e quindi preferivo andare con un volo all'Italia. Arrivati là, viaggio di nozze, non c'è il letto matrimoniale. Quindi, e cosa c'era? Lettini separati? Due letti separati, tra l'altro con un bel telaio di legno in mezzo che non si potevano neanche unire perché comunque ti facevi del male. Vabbè, ma dov'è che eravate? In Kenya? Eravamo in Kenya, sì. Vabbè, lì c'è tanta natura, tanta savana, potevate andare lì e consumare sotto le stelle, dai. Sì, ma con il rischio di qualche mamba che uscisse da qualche parte. Ecco, però, così imparate e andate a Gattio Mare e non andate in Kenya. Ecco, io sono qui che continuo a fare pubblicità a Gattio Mare delle belle vacanze nostrane. Grazie a Claudio, comunque. E a proposito di vacanze fatte con linee aeree un po' particolari, ho un altro pezzettino di film molto divertente che voglio farvi sentire, che è tratto dal film Pappa e Ciccia. Era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali. È rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Andiamo, sterti! Piano, porca puttana, che si rompe tutto! Come si rompe tutto? Prova il microfono 1, 2, 3, 1, 2, 3, sa. Buongiorno. Signora e signore, buongiorno. Qui è il capitano Tombele e il suo equipaggio che vi porgo il benvenuto a bordo del DC, non si sa dove. Ci alzeremo una quota di 60-70 metri all'incirca e viaggeremo a una velocità di 65-67 km orari. L'arrivo è previsto. Magari quelli che tra voi vanno speso sui low cost riconosceranno questo simpatico trattamento. Io non so, non ho mai preso un low cost in vita mia e sono orgoglioso di questa cosa. E per festeggiare vi regalo anche la Hit Parade di oggi. Hit Parade! Numero 10, High, Lighthouse Family. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Numero 9, Drinking in LA, Bram Van Trithausen. Numero 8, Ghetto Superstar, That Is What You Are, Paras Michael. Numero 7, The Music I Like, Alexia. Numero 6, Elisir, Gigi D'Agostino. Numero 5, Da Me a Te, Claudio Baglioni. Numero 4, La Coppa della Vida, Ricky Martin. Numero 3, Viva Forever, Spice Girls. Numero 2, Truly Madly Deeply, Savage Garden. Numero 1, Life, Desiree. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. Era il 1998, bisogna ammettere che era un'estate un po' triste, però erano tutte canzoni un po' in tono minore. Chissà che fine ha fatto Desiree, non so più, ne abbiamo perso le tracce di Desiree. 1998, perché ho scelto questo anno? Perché è stato l'anno in cui è nato l'euro. Noi l'abbiamo ricevuto, è entrato in circolazione nel 2002, però è stato deciso, inventato nel 1998. Da allora in poi tutto è cambiato. La bella estate. Una giornata al mare, solo e con mille lire, sono venuto a vedere questa quella gente che c'è. Rieccoci qui, siamo ritornati con Paolo Conte, che ci ricordava un tempo in cui si poteva andare in giro un giorno intero con 1000 lire, che dovevano essere pochissime, io non mi ricordo più. Oggi, facendo i conti, sono circa 50 centesimi, praticamente l'inedia vi aspetta, la morte, per fame, perché non si può comprare assolutamente niente. Ciò nonostante appunto la mia filosofia sia: se non avete soldi, state a casa. Non tutti la pensano così, e rovistando su YouTube ho trovato delle clip meravigliose di persone che, pur con 50 centesimi, hanno voluto provare il brivido del viaggio all'estero. Cominciamo da una ragazza che è stata a Madrid. Cose da fare a Madrid: visitare il Museo del Prado. Potrete ammirare maglie vestite e maglie un po' più libertine. Andateci di domenica, si entra gratis. Inciuccarsi a cueca. Questo quartiere di Madrid è il regno dei nottambuli. Sangria, fiumi e prezzi bassi. Ammirare i ballerini di flamenco. Andate alla Stablas verso le 22:30 e risparmierete un bel po' di grano. Assaggiare i chorizos di Casamingo. Annaffiati da abbondante sidro, non perdete i piatti di questa taverna asturiana. Andateci in tanti ed avrete uno sconto speciale. Che simpatia, mi prudono le mani, come si dice. Peccato sia un'anonima utente di YouTube. Bene, ma c'è di peggio. Perché limitarsi all'Europa? Perché limitarsi a Madrid quando si può andare sempre senza soldi fino in Giappone? E seguendo i miei consigli potete andare un mese in Giappone e spendendo 1902 euro, perché ho fatto il conto preciso. Quindi 30 giorni in Giappone, hotel, mangiare, volo aereo e tutto quanto, 1902 euro. E sul dove dormire vi consiglio, per voi che volete spendere poco, di dormire negli internet caffè. Adesso molti diranno: oh, io non dormirò mai in una cosa del genere, eccetera eccetera, però gli internet caffè praticamente sono molto molto carini e ci sono delle stanzette che non hanno molta privacy, nel senso che al di sopra non sono coperte completamente. Cioè praticamente sono tutti giapponesi che vi guardano dormire. Allora io adesso devo prendere un aereo e spendo già 1900 euro per andare a Tokyo, dove mi restano 2 euro con cui poi vado a dormire negli internet caffè. Forse non ho più l'età per fare queste cose, chi lo sa, bisogna essere giovani, un po' così spensierati, amanti dell'avventura, però il Giappone è già caro qui, basta andare in un ristorante giapponese e ne uscite fuori con le mutande dei lottatori di sumo, figuriamoci lì cosa non ci costerà. Abbiamo ancora degli ascoltatori all'800 24 00 24 per sentire che cosa ci diranno e cosa mi direte sulle vostre vacanze low cost. Cominciamo da Enzo. Enzo da Torino, pronto? Sì, ciao, esatto, da Torino. Ciao Enzo, allora, che avventura mi racconti? Allora, io ricordo un viaggio in Islanda, stiamo parlando, tieni conto, degli anni 80. Quando non, quando non andava nessuno in Islanda, non come adesso, che vanno tutti a fare fotografie in Islanda adesso. Sì, allora veramente credo che fossimo gli unici turisti italiani, eravamo ragazzi, quindi avevamo pianificato un viaggio veramente low cost. Considera che allora non c'era internet, quindi anche raccogliere informazioni era difficilissimo. Noi avevamo pianificato per la permanenza in Islanda 10.000 lire al giorno, tutto compreso. E come è andato a finire? È andato a finire che il primo giorno siamo arrivati in aeroporto, abbiamo preso un hamburger e una lattina di Coca-Cola, abbiamo speso 8.000 lire solo per l'hamburger. Considera che lì bisognava importare tutto quello che non erano pecore. E infatti, e quindi, il problema è quello dell'Islanda, cioè costa tutto perché non hanno niente, quindi devono importare tutto. E quindi l'unico modo con cui siamo sopravvissuti era dormire negli ostelli, che in realtà in Islanda sono le scuole, che d'estate vengono trasformate in ostelli, si dorme nelle aule, si usano i servizi della scuola, si cucina nelle mense, e quindi all'epoca si pagava 5.000 lire per dormire e il problema era risolto benissimo. E per mangiare con alcuni mezzucci che adesso a 50 anni forse mi vergognerei a citare, allora mi sembravano grandi idee, per uno, esempio? Per tutti, sì. Uno per tutti, avevamo scoperto che il modo migliore per cenare era andare in un fast food, sì. Ordinare la cosa più economica, tipo un milkshake, e sedersi vicino alla famiglia più numerosa, l'Islanda è piena di bambini, perché avevamo capito che tanti bambini voleva dire tanti capricci, quindi due hamburger e due porzioni di patatine, una rimaneva sul tavolo. Ah, non le mangiavo, le mangiavate voi? E noi sparecchiavamo, sì. Adesso forse lo considererei fare il barbone, però all'epoca mi sembrava un modo per sopravvivere. Beh, adesso abbiamo capito come mai c'è questa grave crisi in Islanda, cioè li avete rovinati a questo punto, i poveri islandesi hanno pagato tutto. Vabbè, dai, facevate un po' come i piccioni ai fast food, vi mettevate lì in attesa delle patatine. Beh, però pulivamo. Ma per carità, così, sì, nessuno dice niente, l'importante è che vi siete divertiti. Grazie Enzo, grazie tante. Antonio da Milano, ci sei? Sì, ci sono. Dove sei adesso? Adesso sono in tangenziale a Milano. Ah, molto esotico, è uno dei miei posti preferiti. Proprio. Mi piace tantissimo. E invece il tuo viaggio low cost dove l'hai fatto? Mio viaggio low cost, 18-19 anni, in giro per l'Europa, con in tasca una tessera dell'Interrail e una tessera degli ostelli della gioventù. Da Milano a Londra, Newcastle, Brighton, Parigi, Bruxelles... è una tenda canadese, due posti per due amici, e così ci siamo fatti tutta l'estate. Ma siete rimasti amici oppure poi è nato l'odio? No, siamo rimasti amici nonostante tutto. E appassionati nonostante tutto. Ma lo fareste? Però poi altri viaggi low cost fatti in futuro li ho fatti con altri amici, non più con questo. Ah, vedi allora che qualcosa è successo, perché poi come al solito la convivenza e le ristrettezze economiche giocano dei brutti scherzi. Esiste un nostro amico, c'è un nostro amico che si chiama Ugo Gregoretti, famoso regista e mille altre cose che fa, che in quella famosa intervista di tante cartoline che ci ha fatto Fabrizio Intonti, ci ha anche raccontato di un modo molto simpatico per andare in vacanza risparmiando, anzi guadagnando. Nell'estate del 1965 io non avevo i soldi per mandare i figli al mare, e questo mi pareva una colpa gravissima. E mi arrivò un giorno in cui ero sprofondato nella malinconia per non poter fronteggiare questo dovere paterno, mi arrivò una telefonata dalla RAI dicendo: mi senti, vorresti fare il cantagiro? E io dico, risposi che non sapevo cantare, e mi fu detto: no, dovresti seguire il cantagiro dalla partenza, e non mi ricordo da quale città del nord fosse, fino alla fine, facendo ogni giorno un breve reportage che poi la sera va in onda in una trasmissione che si chiama Il Cantagiro in Giro. Fulmineamente dissi di sì, pur non sapendo del tutto detto niente di musica leggera e di sue derivazioni. Naturalmente si di sì, e così i bambini andarono al mare e io andai a fare il cantagiro con della gente di grande qualità, ma anche con dei rozzacchioni, diciamo, tra i partecipanti. Poi facevamo lo spettacolo ogni sera, insomma è stata un'estate anomala, atipica, ma divertente. Forse mai tanto divertente quanto quest'estate che sto passando io qui con voi, ascoltando quello che avete da dirmi all'800 24 0024. Dovete sempre parlarmi di vacanze fatte a basso costo. Finora però non ho ancora sentito nessuno che abbia scroccato la vacanza. Voglio sentire anche quelle storie. Intanto c'è Matteo da Treviso. Matteo. Sì, ciao. Ciao. La mia vacanza low cost è stata una traversata di un gruppo che si chiama i Lagorai, che si estendono ad est di Trento. Sono dei monti, quindi? Sono dei monti, sì. Ho fatto questa traversata qualche anno fa con mia moglie. Abbiamo speso circa 30 euro, compreso il viaggio, perché... Siete andati col tram? Com'è che siete andati? Siamo autobus? Andati in treno, partendo da casa abbiamo preso il treno, siamo andati a Levico Terme, sì? E da là a piedi siamo andati fino a San Martino di Castrozza attraversando questa catena. Quindi, ma quanti giorni, quanto tempo avete messo? Ci abbiamo impiegato 10 giorni. Dieci giorni. 30 euro? 30 euro 10 giorni? 10 giorni, perché abbiamo portato via di tutto per mangiare, e quindi il pane, la marmellata, l'affettato, il salame, e col fornello a gas abbiamo fatto anche il caffè la sera. Ma siete dei veri esploratori da deserto. Sì, non abbiamo avuto grosse difficoltà, perché... Complimenti, guarda, complimenti. Non so che oggi non ho un premio speciale da dare, ma se l'avessi te l'avrei già dato, guarda. Oh, c'è anche una signora che ha chiamato, Sofia da Milano. Sofia. Sì. Ho 85 anni, ho superato... No, scusa Sofia, ripetiamo, quanti anni hai? 85. E mi racconti di cosa? Dell'Interrail, no? È un viaggio che ho fatto... Non posso dire scroccato, ero stata mezza invitata, mezza andata io, così. Avevo una compagna di scuola. Sì? Che, quando, scusa, era un... quando è successo questo, Sofia? Questo è successo che avevo 16 anni. Tutti lì a fare i conti, va bene. E allora cosa è successo? È successo che questa mia compagna di scuola aveva l'otto volante, e venivano a Milano e facevano varie tappe al sud, al nord, dappertutto. C'è stato una estate che andavano da Milano, andavano a Palermo, e io li hai seguiti, hai fatto una vacanza praticamente seguendo la giostra. Seguendo le giostre, ma loro non c'erano i camper né avevano i vagoni, c'erano proprio le carovane. Guarda, le carovane. No, è veramente la vacanza più bella di cui abbia sentito oggi parlare. Complimenti, Sofia, hai vinto il premio. Cosa le regaliamo? Un premio, il biglietto per andare fino a Molino Dorino con la metropolitana. Grazie, Sofia, comunque. Allora, ho sentito veramente delle belle storie oggi. Mi sono veramente piaciute e mi è passata del tutto la voglia di andare in vacanza. Quella poca voglia che avevo, basta, addio. Finché non potrò permettermi l'Oriente Express, resto qui. E ci sarò anche domani. Domani si parlerà di cibo. Una fame da lupo di mare sarà il titolo del programma. Cibo in spiaggia. Grazie a Mauro De Angeli in regia. Oggi avevo addirittura due redattori, Franco Piantanida e Viola Bottoni, alla faccia del risparmio. Ci sentiamo domani. Ciao.